Rock Revolution su CRMP Radio anche questo venerdì sera in diretta, poi la replica domenica sera, e quindi siamo pronti per il momento clou della settimana. Ebbene sì, direttamente da Palermo questa settimana con noi il Sintetico! Standing Innovation, ragazzi, breve però è stata proprio forte, eh? Buonasera! Ciao a tutti, ciao a tutti, buonasera a voi. Oh, che bello. Allora, noi ci siamo incontrati praticamente al Rizla Contest Festival, una manifestazione che si è tenuta quest'estate quando c'era decisamente una temperatura migliore rispetto ad oggi, e abbiamo ascoltato la vostra musica e ci siamo innamorati del vostro sound e quindi abbiamo pensato bene questa sera di incontrarvi. Perfetto. Allora, abbiamo con noi questa sera, faccio la presentazione, Eva Favarò alla voce, Nick Florio chitarra, synth e cori, Fabrizio Nicolosi al basso, Felipe Prefetti batteria e programmazione. Poi ci faremo a spiegare anche in cosa consiste questa programmazione, è un po' curioso. Vi faccio conoscere il loro MySpace, che è http://www.myspace.com/isintetico, così nel frattempo, se avete piacere e voglia, potete andare a guardare e ascoltare le canzoni. Però io vi consiglio chiaramente di seguirci in diretta, perché oltre ad ascoltare dei pezzi registrati avremo il piacere di sentirli in versione acustica dal vivo. Prima volta in acustica? Prima volta in acustica, quindi per voi. Che bello. Ansia, panico? No, siete tranquilli, no? No. Probabilmente durante il corso del programma magari avremo delle reazioni, non so, crisi di nervi, però sintetiche. Sì, quindi. Sintetiche, perfetto. Allora, iniziamo subito con la domanda, insomma, classica che si fa quando si fanno le interviste. Come nascono il Sintetico e dove trova origine questo progetto? Io ti rispondo come si risponde di consueto. Nel lontano 2005, saremo brevi, nasce il gruppo Sintetico dopo... la scissione di un gruppo che salutiamo oramai a Milano, e sono i Brahman, di cui facevano parte Felipe Prefetti e Nick Florio. Decidono. Scusa se ti interrompo, sono qui, li sentiamo, volevo salutare, ragazzi. Buonasera. Sì, ciao a tutti gli ascoltatori di Rock Revolution. Perfetto, ok, scusa l'interruzione, ma ci tenevo perché proprio la gente dice, quella che è in radio, dice: ma dove sono questi ragazzi? Siccome in webcam ci vedono, in audio no, allora era giusto. Chiusa parentesi. E allora, c'è chi ci ha creduto a Milano, c'è chi ci crede ancora a Palermo, e sono forse gli unici pochi musicisti rimasti, e hanno deciso di così di prendersi una cantante simpatica. Sono simpatica, no? Tu che dici? Simpaticissima. Perfetto. E di formare il Sintetico. E abbiamo un nuovo arrivo, una grande sorpresa portataci l'anno scorso, il nostro Fabrizio Nicolosi al basso, e quindi la band è al completo. Come vi siete incontrati? Avete messo un annuncio su internet, che ne so, cercasi bassista? Guarda, allora, è stato lui a trovare noi. Sì. È stato lui a trovare noi, noi siamo stati felicissimi di averlo in famiglia, perché in realtà l'incontro tra tutti noi musicisti è nato perché siamo amici da circa 10 anni e ancora non ci siamo scocciati, quindi è probabilmente... È bello, bisogna trovare gli equilibri giusti per tenere in bilico questa situazione. Voi siete, insomma, dal 2005 però avete partecipato a diverse manifestazioni. Parlavamo di Milano, ad esempio, avete partecipato a Rock Targato Italia, le finali nazionali all'Indian Saloon, poi il Festival Rock di Gela, primo premio miglior band musica inedita 2008-2009, ancora il Tour Music Fest, le semifinali a Roma, e poi il Rizza, dove ci siamo incontrati e conosciuti. Sì, e poi un altro incontro importante, almeno per noi a livello di proprio esperienze e contatti, è stato avere vinto il concorso di Caltanissetta. Siamo arrivati primi e io mi sono potuta diplomare così al CET, la musica al CET, che è un centro di musica di Mogol, di Giulio Mogol. Ah, complimentoni. Allora, il vostro sound, diciamo così, potrebbe essere definito come un mix di rock ed elettronica. Se doveste dare una definizione precisa alla vostra musica, quale sarebbe? Ma in realtà noi cerchiamo di prendere tutto quello che ci viene, noi diciamo sempre al box, dalla pancia, no? Quindi le basse frequenze, ci può stare il rock, ci può stare il dub, ci può stare il pop semplicissimo e qualcosa di elettronico, perché no? Assolutamente. Sentite, siccome noi generalmente abbiamo, come dire, prendiamo in considerazione quelle che sono le band forse un po' più conosciute nel panorama nazionale, internazionale, vedi ad esempio Subsonica, Sonica o altri. Mm-hmm. Voi avete preso delle ispirazioni o comunque hanno influenzato la vostra musica queste band che sono già conosciute, oppure ritenete che il vostro sound sia totalmente nuovo, privo di influenze musicali? No, no, la musica è unione delle influenze musicali, per cui vanno bene i Subsonica, vanno bene Delta V, i Portishead, vanno bene... Suggeritemi, ragazzi, anche voi fate parte di Sintetico, i Metric, poi Depeche Mode, poi chi abbiamo? Metric, anche che magari è un gruppo che non si conosce molto, ma... Sì. Ma è veramente molto, va molto forte. Partite un fischio dalla platea. Sì. Allora, che facciamo? Ascoltiamo un pezzo oppure li facciamo suonare dal vivo, caro regista? Facciamo proprio un pezzo. Voi ci avete inviato due brani che sono veramente molto belli. Questo qui l'avete proposto anche a Rizla, non ricordo. Sì, La vita che vorrei e Mani in alto, che fa parte proprio il titolo del nostro demo. Perfetto, allora facciamo subito una piccola pausa con questo pezzo che ascoltiamo. Volevo farvi una brevissima domanda. Volete fare qualche saluto? Abbiamo finito l'intervista. Stavo scherzando. Allora, arrivederci, ciao. Stavo scherzando. Vabbè, facciamo il pezzo quindi con il Sintetico, La vita che vorrei. Questa versione è registrata in studio. Quando l'avete registrata? Un annetto fa. Va bene, ascoltiamo quindi adesso questo pezzo. Vi volevo ricordare gli sms al 335 56 37 251 se avete piacere di fare qualche domanda alla nostra band ospite, diretta @rockrevolution.it, il nostro indirizzo messenger per chattare con noi, fare anche in questo modo qualche domanda, o semplicemente dalla nostra pagina Facebook che è Rock Revolution Redazione. Siamo online, quindi se avete piacere. È ricambiato il Sintetico su CRMP Radio per Rock Revolution. La vita che vorrei. I Sintetico, La vita che vorrei. Allora, di cosa parla questa canzone? La vita che vorrei parla del desiderio di ognuno di noi quando cerchiamo l'amore. Ah, quindi una canzone d'amore. Sì. Bene. Allora, domandone. Trovate dei cambiamenti nel vostro attuale stile rispetto a quello originario? Avete iniziato con un sound diverso da quello che attualmente proponete, oppure avete mantenuto una linea costante nel tempo? No, siamo perennemente in crescita e in ricerca, per cui il sound cambia continuamente. Si evolve. Sì, si evolve. Quali sono i principali temi che esplorate attraverso i vostri testi? Abbiamo parlato di amore, c'è anche politica, c'è anche altro? Guarda, i testi li scrivo io e mi rifaccio quasi sempre osservando le persone, per cui parlo di tutto quello che siamo noi in generale, senza troppe ricerche. Di politica no, perché è un po' difficile parlare di politica. Soprattutto in questi tempi, aggiungo io. Sì, perché io la cerco la politica, però non la trovo. Eh beh. Allora, parliamo ancora un po' di... Parliamo un po', volevo parlare un po' con i musicisti. Adesso, siccome nello studio siamo posizionati in modo un po' complicato, no? Perché dovete capire che all'interno di uno studio radiofonico non è predisposto per suonare e fare musica, quindi noi dobbiamo un po' sistemarci. Chi ci guarda in webcam si fa due risate perché questi spostamenti, bellissimo, questi cavi, queste robe qua. Volevo parlare un po' anche con il chitarrista, con batterista di questa esperienza con il sintetico. Il nuovo è il bassista, sì. Mi pare di aver capito, quindi mi giro da questa parte qui. Allora, volevo chiederti, se ci passano un microfono anche da questa parte, come mai questa unione, come ti trovi con questa band? Oh, guarda, sicuramente il genere elettronico mi incuriosiva già da tempo, io venivo da altri generi, dopodiché... stavo iniziando a fare, insomma, qualcosa da solo, no? E allora ho detto un attimino, cerchiamo una band che è sicuramente più esperienza di me con l'elettronica. A Palermo chi c'erano? C'erano i Sintetico, gli ex Brahman che poi hanno formato i Sintetico. E allora ho detto un attimino, ma vediamo, magari... Quasi quasi mi infilo, no, in questo gruppo. E l'abbiamo adottato. E mi hanno adottato, sì, mi hanno rieducato, no, a questo genere. Devo dire che la mia formazione comunque è cresciuta molto per quanto riguarda l'elettronica. Ecco, volevo parlare proprio con voi di quelle che sono state le vostre influenze. Non so più come girarmi. Come sono state le vostre come sono state le vostre esperienze, le vostre influenze musicali. Quindi iniziamo dal bassista con cui stavamo parlando poco fa. Volevo chiederti quali sono le tue band preferite, quella musica che ascolti quando sei per i cavoli tuoi, insomma. Bah, guarda, io nasco sicuramente come grande ascoltatore dei Queen. Ah. Anche lì c'erano periodi di innuendo, c'erano sicuramente già grandi pezzi, grandi inserti di elettronica che sono poi comunque alla base, non sono l'inizio della musica elettronica, sappiamo che viene dai Kraftwerk, viene da tanti altri gruppi la musica elettronica, però parere mio l'elettronica dei Queen era quella che più alla quale più mi sarei voluto ispirare, sicuramente. Certo, una bella fonte di ispirazione. Nick, invece tu? Mi giro dall'altra parte. Diciamo, le mie influenze vengono da altre cose, diciamo. Però con loro ho scoperto, riscoperto tante cose, come Fabrizio, quindi anche l'elettronica è entrata nella mia vita, diciamo, da quando abbiamo cominciato a fare questa scelta di vita, e insomma ne sono contento, dico, perché adesso ascolto molto, cioè il mio orizzonte musicale si è allargato veramente parecchio, diciamo. Invece il nostro batterista è nato elettronico. Esatto, ah, è nato, sì, proprio elettronico. Felipe, sì, come lui mai è Felipe? Il maestro, dell'elettronica. Sei il mio alter ego spagnolo oppure... No. Il microfono. Facciamolo parlare, sì. Più che altro sudamericano. Sudamericano, di dove esattamente? Del Cile. Ah, che bello. Come mai da queste parti? Perché mia madre ha sposato un palermitano. Ah, che bello, hai visto? È sempre positivo questa cosa qui. Il miscuglio razziale è sempre una cosa positiva. Porta dei bei frutti, infatti Felipe è un bravissimo batterista. Va bene, allora ragazzi, io direi di fare musica dal vivo. Okay, siete abbastanza caldi, sì, stropicciate, sì, le manine, sì. L'ugola. Iniziamo a fare musica dal vivo. Quindi pregherei la regia di fermare tutto quanto, le basi e quant'altro, perché abbiamo il piacere questa sera di avere il sintetico in versione acustica dal vivo per Rock Revolution. Cosa ci fate ascoltare? Sì, aspetta, parla qui perché, ecco. Senza aria e a parte le distanze. Perfetto, senza aria, a parte le distanze. Poi ci spiega anche perché questa cosa qui. Il sintetico, Live Unplugged per Rock Revolution. Buon ascolto. Mm. Fermo tutto, non sentiamo la cantante. Ok, piccolo problema tecnico. Questo è il bello della diretta, non ce ne vogliate. Vieni qui vicino a me. Ok, adesso diamo un colpo di frusta alla nostra regia, anche se forse non è stata casa sua. C'era qualcosa che non andava nel microfono, giusto? Vabbè, ti va di cantare qui vicino a me? Con questo qui? Perfetto. Allora, riprendiamo. Non ci bastonate, insomma, è il bello della diretta. Riprendiamo dall'inizio. Sintetico, live and play per Rock Revolution. Non posso restare a guardare, non posso restare ad ascoltare il tempo che passa, la gente che mi guasta. Non posso restare a guardare, non posso restare ad ascoltare il tempo che passa, la gente che mi guasta. Potessi fermare quell'immagine, potessi fermare quell'istante, il giorno che passa, la mente che si guasta. Rimane il momento fatale, rimane la voglia di respirare, il vuoto che mi prende, adesso non può bastare. È come se cercassi te, sospesa in aria. Vorrei urlare che io vivo senza aria. È come se cercassi te, sospesa in aria. Vorrei urlare che io vivo senza aria. Osservo quell'immagine, ricordo quell'istante, il vuoto che passa, la gente che non mi basta. Corri, corri come un robot, ti prego esci dal tuo blog, lasciati toccare, non saprei come tornare. Corri, corri come un robot, ti prego esci dal tuo blog, lasciati toccare, non saprei come tornare. È come se cercassi te, sospesa in aria, vorrei urlare che io vivo senza aria. È come se cercassi te, sospesa in aria, vorrei urlare che io vivo senza aria. Standing Ovation, che bella sta canzone, ragazzi. Come è andata? A parte il piccolissima difficoltà tecnica iniziale di questo maledetto microfono che adesso facciamo volare fuori dal balcone, mi pare che sia stata davvero una bella canzone. Questo poi lo facciamo dire a chi lo ascolta. Domani mattina i commenti. Vabbè, vediamo se intanto arrivano dei commenti al 335-56-37-251, Messenger, diretta, crmpradio.it oppure Facebook, Rock Revolution, redazione. Fateci sapere cosa ne pensate noi siamo molto contenti. Allora, continuiamo con l'intervista e andiamo un po' a parlare di target. Ecco, entriamo un po' nel marketing musicale e parliamo di targeting. Di targeting. Sì, dall'altra parte della regia mi volevano salutare. Ciao, saluto anch'io. Allora, il pubblico del pop rock rilassato, quello dell'ambient, cosa pensano secondo voi di questa musica che voi fate? Cioè, voi vi riferite praticamente a un tipo di ascoltatore specifico, l'ascoltatore che ascolta musica elettronica, oppure no? Oppure... Guarda, in realtà non è questo il nostro obiettivo, nel senso che poi ognuno ascolta la musica che gli piace, per cui ci sarà sicuramente un target di pubblico che apprezzerà la nostra musica perché mettiamo dell'elettronica, che poi ormai, dico, mettiamola anche un po' a bada l'elettronica, perché tutti fanno elettronica come tutti fanno jazz, giusto? Per cui, però certo. Dico, sicuramente con una voce melodica, un ritornello che puoi sicuramente cantare anche sotto la doccia, funziona e prendi un po' tutti, e questo poi è l'obiettivo. Dare la musica a tutti. Assolutamente, infatti ci sono i pezzi che sono radiofonici, tra virgolette. Qual è il pezzo radiofonico dei sintetico, secondo voi? Ma guarda, in questo momento ti dico Mani in Alto. Ti dico in questo momento perché a brevissimo uscirà il nostro EP. Proprio forse ce lo porterà Babbo Natale o la Befana, ah, che bello. Non sappiamo ancora. Allora ci dovremo incontrare prossimamente? Certo. Bene. Allora io direi di andare ad ascoltare proprio questo pezzo che si intitola Mani in Alto. Del sintetico, e quindi lo ascoltiamo, e questo qui è registrato in studio. Sì, sì. Benissimo. Mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, mani in alto e faccia al muro, Mani in alto e faccia al muro. Eva, perché questa Dimmi. Canzone? Di cosa parla? Allora, questa canzone parla di violenza. Parla di violenza, parla di stalking, parla di coloro, dai bambini che vengono picchiati, a una donna che ha ricevuto delle violenze, a un uomo, no? Perché un po' tutti siamo violenti, di ricostruirci un'immagine, no? Di certo. conservare la nostra anima nonostante questo e andare avanti. E quindi li mettiamo, cioè noi reagiamo con le mani in alto alla violenza e li mettiamo con la faccia al muro, no? Bene, mi pare giusto. Io aggiungerei anche qualche bastonata in più. Allora, arrivano degli sms. Ecco, contro la violenza. Vabbè, io, cioè, siamo vabbè, tutti violenti, ci sta. Un bastonato ogni tanto ci sta, bravo. Allora, bravi, sintetico, ma soprattutto brava boss. Questo è un sms che è arrivato, non è firmato, almeno mi parli di non leggerlo, grazie. Io sì, saluto con un saluto... Un saluto educato. Festoso. Chi sì, educato e festoso, chi ha mandato il messaggio capirà. Benissimo. Non posso farlo in diretta. Va bene, va bene. Allora, se doveste indicare a qualcuno che non vi ha mai ascoltati la canzone che meglio potrebbe rappresentarvi, quale scegliereste al di là di radiofonico, non radiofonico, commerciale, non commerciale? Sicuramente in questo momento Mani in alto. Ci Mani crediamo alto. Tantissimo in questo pezzo, per cui se girasse in radio fino proprio a non poterlo ascoltare più io sarei felice. Effettivamente. Come? Senti, vabbè, a parte di scherzi, se dovete parlare invece di scena musicale siciliana, no? Parliamo un po' di quello che è la nostra situazione attuale. Sappiamo che per le band emergenti è un po' difficile venire fuori, ma anche semplicemente suonare probabilmente nei locali. Cosa ne pensate voi, sintetico, di questa situazione sicula? Consigli, lamentele, polemiche? Guarda, lamentele e polemiche no, perché io penso che tutti i gruppi in Sicilia vogliano suonare, stiamo facendo un po' di tutto, unendoci affinché questo avvenga e soprattutto stiamo anche un attimo vicino anche a coloro che sono i proprietari dei locali, che alcune volte non hanno colpe perché ci sono comunque delle leggi che bisogna, fra virgolette, rispettare. In ogni caso si suona dove si può e dove non si può si suona uguale. Certo, è giusto, la musica fuori, va comunque, oltre le infatti, barriere. Non si ferma la musica. È giusto che sia così, è giusto che sia così. Allora, abbiamo parlato di questo vostro nuovo lavoro, state lavorando a questo nuovo progetto che fra poco verrà fuori, nascerà maschio o femmina? Femminuccia, perché la cantante è femminuccia. Femminuccia, sono contenti i maschietti. Quindi di sovrasto, certo. Questa cosa gliela... Diciamo gliela concediamo, ecco, questa cosa, visto che l'anello debole si fa per dire, molto virgolettato, diciamo, del gruppo. Sì, io sono buonissima con loro lo percepiscono, sì. Tiro microfoni, poltrona, sì. Buonissimo, sì. Questo è sempre contro la violenza, ma in certo, alto. Certo. Noi siamo delle povere vittime, lasciatemelo dire pubblicamente. Quando si dice scrivi quello che senti, no? è giusto che sia così. Va bene, allora ragazzi, facciamo l'ultimo pezzo in versione live, acustica. Okay. Cosa ci fate ascoltare? A parte le distanze. Parla di? A parte le distanze parla di un ragazzo e una ragazza che si sono lasciati, decidono di far pace. Il problema è che non fanno pace. Non fanno pace perché vivono in due città diverse e quindi nonostante cercano di raggiungersi non ci riescono, però a parte le distanze continueranno probabilmente ad amarsi per sempre. Che bella questa cosa qui. Ah, ci voleva un pochino coi cuoricini. Allora, Live and Play per Rock Revolution, il sintetico. Buon ascolto. Queste mani stanche se ci sarai, rimani. Ti aspetterò da qui fino a domani. Se ci sarai, rimani, a parte le distanze, le distanze. Gli angeli sembrano lontani, come la terra con le astronavi, ma sono vicini più di quanto tu pensi. Accanto al tuo cuore, accanto ai tuoi sensi. Voglio credere che questa lunga attesa, come una clessidra che segna il tempo, possa servire a regolare i tuoi giorni, crudi di senso, pieni di niente. Aspetterò da qui fino a domani, tra queste mani stanche, se ci sarai, rimani. Ti aspetterò da qui fino a domani, se ci sarai, rimani, a parte le distanze, le distanze. Bello questo pezzo, veramente grandi, grandissimi sintetico. Allora, grazie. Arrivano altri SMS, allora vediamo un po', leggiamoli, che ci fanno sempre piacere. Sì, sì. Grandi miei amici sintetico, li ho visti nascere e li vedo crescere artisticamente ogni giorno di più. Spero riescano a raccogliere al più presto i frutti dei loro sacrifici. Io ci credo quanto loro, sono davvero in gamba e riusciranno. Smile, in bocca al lupo, Annalisa. Grazie Annalisa. Grazie davvero Annalisa. Un altro SMS, poi scritto da Drummo, questo sarà il nickname probabilmente, dice: ascolto per la prima volta dal vivo i sintetico e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. Complimenti al gruppo palermitano, ma specialmente ad Eva, che mi ricorda vagamente Meg. Brava, mi dai il tuo numero, ti faccio una ricarica. Perfetto, ti amo. Senti, se ti do il mio lo fai anche a me, per favore. Va bene ragazzi, c'è qualcun altro che vuole fare una ricarica? Sì sì, tutti. Fa tutti, tutti quanti, vabbè, allora alla fine poi mettiamo su Facebook la lista dei nostri numeri di telefono, così vi sbizzarrite quanto volete. Ragazzi, vi ringraziamo di essere stati con noi, grandissimi complimenti per il vostro futuro professionale, professional e non solo. Ci vediamo presto per il prossimo disco, no? Certo, sta uscendo, sì, quindi sì, dovremo poi uscendo. Parlare di questo nuovo lavoro. Non ti liberi di noi. Bene. Grazie a tutti voi, ragazzi, veramente saluto qui studio, perché per noi sono importantissime Claudia Canestro, che è la nostra fotografa personale. Salutiamo Ilenia Messina, che è la nostra, cioè, dovrebbe procurarci le serate, va. La band manager, si la dice. Band manager. La band manager. Giuseppe, Giorgia Pandolfo, Marco Tumminello e Annalisa. Ciao Annalisa. Ciao, bene, Annalisa, bene, grazie. È sempre un piacere avere bella gente che ascolta il rock and roll qui con noi. Quindi vi auguriamo nuovamente un grosso in bocca al lupo. E volete... siete sintetici. soprattutto. Sempre, io poi sono sempre sintetico. Allora ragazzi, volete salutare in modo breve qualcuno? Sì, come fanno tutti i palermitani, salutiamo tutti gli amici, salutiamo tutti i genitori, mamme, papà, cugini, fratelli, carnezzieri, panettieri e chi ne ha più ne metta. Soprattutto carnezzieri, a Palermo non si utilizza. Va bene, ringraziamo il sintetico, di grazie, nuovo ragazzi. Grazie a voi soprattutto, grazie. E anche grazie, quest'oggi, ahimè, siamo arrivati a conclusione di questa ennesima puntata di Rock Revolution su CRMP Radio, ogni venerdì sera vi teniamo compagnia con la musica, i grandi successi del rock, ma anche le novità musicali, gli artisti emergenti, e quindi la sigla iniziale, quella che poi ci apre le porte per la lunga serata che trascorreremo insieme al mio regista carissimo, ma anche insieme al mio co-conduttore Simone. Eccomi qua ragazzi, mamma mia che bella serata. Una bellissima serata, fredda però c'è stato veramente da divertirsi. Arrivano ancora sms, pensate un po', complimenti e sintetico, si avverte che amano la musica, brava la cantante diva, la cantante, sarà toscana, Fiorentino, la cantante, Ida, vabbè. Allora, grazie a tutti quanti, inizia la sigla di quest'oggi, saluto la nostra redazione Ida, che quest'oggi ha avuto fama e gloria in questo sito di recensioni, con lei sta sempre tutta settimana messa al computer a fare recensioni di tutte le band che arrivano in settimana. Simone Brancato, carissimo, buona serata, grazie. Buonasera a voi e a venerdì prossimo. A venerdì prossimo, Simone, caro. Sì, Gianni, la nostra regia, ciao, mi fai un salutino al microfono? Ciao, che ti sento lontano, sarà il vetro doppio che ci divida, questo qui è il problema. Tutti gli amici che ci seguono ogni venerdì sera dalle 21 alle 23, domenica vi ricordate la replica dalle 21 alle 23, poi il podcast sul nostro sito internet rockrevolution.it, i video, le foto sempre sul nostro sito internet, del sintetico ma anche di tutte quante le altre band. Grazie a tutti da Filippo Brancato, appuntamento la prossima settimana su CRM con Rock Revolution. Bye bye!